questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buongiorno e bentornati a Radio Tube, il Radio Tube della domenica che come sempre vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo. Questa settimana niente di perdibile della settimana tra TV, web TV, social TV. Questa settimana una monografia dedicata a un appuntamento, Daniele, qualcosa che ci appassiona sempre tantissimo, anzi la più di un aspetto, e le serie televisive, perché sì. Sai che c'è un politico abbastanza importante in Italia in questa fase che ha detto ma ha buttato lì un giorno una battuta del tipo: dalle serie TV la politica addirittura c'è un da imparare. Sì, uno adesso era in viaggio, poi torna e ha detto questa cosa, anzi è stato visto uscire da una famosa Feltrinelli a Roma con il libro di Dobbs che tu hai intervistato, quello da cui è tratto House of Cards. Insomma, quindi noi parliamo della politica raccontata attraverso le serie TV. C'è uno spunto di cronaca, Sì. L'abbiamo lo spunto di cronaca, perché oltre torna la battuta di Renzi, oltre la battuta, certo. Torna Jack Bauer. Sì, tutti ne parlano. Si vedono anche questi manifesti di lui. Anzi, guarda, io no? ho anche la maschera. Ah, dopo, è arrivata anche dopo, a me. Sì, dopo twittiamo la maschera di Jack Bauer. Allora, torna Jack Bauer, che è il protagonista di 24, quindi Kiefer Sutherland. Praticamente dal 16 si comincia a trasmettere 24 Live Another Day, che è un evento televisivo in 12 puntate che riporta sul piccolo schermo il personaggio di Jack, che mancava a tutti, e tutti si chiedevano: ma che cosa ha fatto Jack Bauer in questi anni? Perché in realtà cosa ha combinato 24 in questi anni? Vabbè, quando era cominciata non c'era ancora la social TV come c'era adesso, ma 24 ha rivoluzionato un po' i comportamenti di visione, come in questo audio che è tratto da uno speciale di Fox. Raccontano proprio Kiefer Sutherland, Kim Raver e Marilyn Rajkowski, che sono appunto i protagonisti di 24. Questo personaggio è come un vecchio amico immaginario dimenticato. Ci siamo ritrovati. 24, secondo me, ha cambiato il modo in cui la televisione veniva seguita. E viene seguita. La caratteristica di 24 è che dà dipendenza. I vari intrecci che rimangono in sospeso alla fine degli episodi ti portavano a voler vedere tutta la serie di seguito. È stato il modello che hanno seguito tante altre splendide serie dopo la nostra. La televisione è il mezzo di comunicazione più interessante ormai. E io faccio sia cinema che TV. Ma la televisione è diventata molto emozionante e coinvolgente, grazie anche al contributo di una serie come 24. E di questo andrò sempre fiero. Beh, insomma, Kiefer Sutherland ci lascia intendere che con 24 è un po' iniziato il fenomeno del binge watching. Tra l'altro, questo nuovo 24 ha a che fare con la rete. Sì, le maratone. Vederle tutte di fila. Sì, io sto facendo delle maratone adesso qua a inizio estate, poi ti posso raccontare. Allora, che cosa succederà? Senti qui, in questo nuovo Live Another Day. Praticamente, allora, 4 anni fa Jack Bauer si era nascosto dopo l'uccisione di un assassino diplomatico russo, continua a usare i suoi metodi carini, la tortura, il ricatto, queste cosine qua che faceva lui, ma dal primo episodio di questo Live Another Day, 8 milioni di spettatori negli Stati Uniti, al centro dell'azione c'è un gruppo che opera in stile WikiLeaks, quindi la rete entra anche in questo nuovo 24 binge watching. Adesso ci sarà la social TV, che insomma fino a 4 anni fa non si faceva. C'erano i forum, ma non c'erano i social network come adesso. La social TV che facciamo tanto su alcune serie, in particolare una che piace moltissimo a Daniele Bellasio, eccola qua. Mio padre è morto per un attacco di cuore a 43 anni. E quando è morto ho alzato gli occhi a Dio e sì, ho detto quelle parole. Perché mio padre era così giovane, così pieno di vita, pieno di bei sogni. E allora perché il nostro Dio ce l'ha portato via? A dire il vero, non ho conosciuto né lui né i suoi bei sogni. Era silenzioso, timido, quasi invisibile. Mia madre non lo stimava, la madre di mia madre lo odiava. Quell'uomo non sfiorava la superficie della vita. È stato un bene che sia morto giovane, non faceva che occupare spazio. Ma questo non sarebbe stato un elogio molto convincente. Ho pianto, mi sono disperato. Perché, Dio? Come posso fare a non odiarti? Quando tu mi hai portato via la persona che amavo di più al mondo e ammiravo con tutto me stesso. House of Cards. Io vorrei citare un titolo di un pezzo uscito su un imperdibile numero di Il Sole 24 Ore, House of Cards, la televisione e la nuova letteratura. E sai chi aveva scritto questo pezzo? Sono preparato. Sei preparato? Camilla Bresani che è con noi oggi, buongiorno Camilla. Buongiorno a tutti. Beh, ciao. Insomma, lui è irresistibile, cioè House of Cards è una serie. Volevo dirvi che io non ho capito di che serie si trattasse, perché io l'ho vista in lingua originale con i sottotitoli, ovviamente, e non mi suonava. Camilla, ti posso confessare anch'io, cioè che io questi audio li prendo in italiano solo per trasmetterli alla radio, ma anch'io niente, le devo guardare. Sono un'altra serie. C'era già un'enfasi, sì, che non riconosco, una diciamo recitazione attoriale nella buona tradizione italiana, che però non è... Sì, siamo abituati, perché i veri onnivori di serie TV poi alla fine andiamo, le guardano. No, vabbè, ma scusa. A me piace anche in italiano. Ti piace anche in italiano? Avevo anche scoperto che Daniele... Scandal l'ho visto in inglese. Sì. E non l'ho visto in italiano, anche perché in italiano è andato tanto bene. Dopo ne parliamo. Ma invece House of Cards, sì, in italiano, lo ammetto. Ecco, allora l'ha confessato. Magia di House of Cards. Cioè, le parole su House of Cards, Camilla, non bastano mai. È una serie... No, non bastano mai, perché sai che secondo me se uno guarda quella serie... a rallenti e quindi si ha tempo di prendere le frasi, in realtà è un manuale di aforismi quella serie. Sì. Vero. È letteratura, cioè proprio non, chi l'ha scritta è gente che scrive veramente bene e che è riuscita a comporre in forma narrativa un insieme di massime. Se voi guardate la serie House of Cards, prima e seconda stagione, con quell'ottica vi rendete conto che non c'è niente da invidiare a quegli autori di massime tipo La Rochefoucauld, quegli autori francesi un po' liberali e cinici che hanno fatto così la storia della letteratura, della saggistica, insomma è molto, molto... Infatti molto, su Twitter bene. Le citazioni di Frank Underwood sono dei tweet perfetti. Tra poco chiederemo anche a Camilla cosa ne pensa di questa cosa della scuola politica delle serie. YouTube. Allora, rieccoci insieme, stiamo parlando di politica e serie TV. Abbiamo con noi Camilla Bresani, giornalista, scrittrice e ho scoperto appunto anche grande appassionata di serie TV. E lo spunto per questa chiacchierata era arrivato da un pezzo molto bello su Il che riguardava House of Cards, però insomma l'abbiamo un po' unito a questa notizia molto più recente, che è questa di questa sorta di, qualcuno la chiamate Frattocchie 2.0, la nuova scuola della politica della sinistra, con anche lezioni di serie TV, perché appunto si dice nei corridoi serie come House of Cards, ma anche come Scandal o come Homeland, potrebbero insegnare ai politici moltissimo. Camilla, ti chiedo subito cosa ne pensi. Dunque, ho saputo per certo in discrezione di una cena che si è svolta a casa dell'ambasciatore americano a Roma, quando c'è stata la visita di Obama. C'era presidente Obama, un paio di fratelli Elkann e mi pare il proprietario della Roma, squadra di calcio. E in questa cena così piccola, ristretta, erano in otto, hanno parlato di serie televisive. Obama avrebbe detto che la vita alla Casa Bianca è molto più noiosa che in House of Cards, West Wing, Scandal, le tre grandi serie che hanno raccontato la vita politica americana. Insomma, però appunto mettiamoci anche 24, che 24 ha preceduto tutti, perché 24 certo. Ha fatto il presidente nero quando ancora neanche ce lo immaginavamo, è roba di anni fa. Invece in Scandal il presidente è bianco, mentre afroamericana e è alla Casa Bianca diciamo non è molto noiosa. Beh no, la Casa Bianca è vivacetta. Sì, ecco, è abbastanza... c'è qualche predecessore di Obama, sì, magari sì. Un po' ricordava. Vabbè. Beh no, però, no, allora, ascoltiamo un pezzettino, sempre qua in italiano, anche questo io però l'ho visto in inglese, di Scandal, eccolo qua. Mi hanno detto che sei molto impegnata per il caso Sally St. James. Non so come ringraziarti per questo favore. Si chiama Amanda Tanner, ha 27 anni. Si vocifera che intenda parlare. E non potete licenziarla? Non senza provocare un mezzo disastro. Pare che intenda rilasciare una dichiarazione alla stampa. Vorremmo impedirle di farlo. Non sarebbe giusto. Apparirei come un vecchio maniaco. Te lo devo chiedere? No. Mai fatto. E non lo farei mai. No. Mi conosci da molti anni. E meglio di chiunque altro. Sai che non mi infatuerei mai di una ragazzina. Io amo una persona sola. Melly e Fitz sono felici insieme. Non ha motivo di tradirla. Me ne occupo io. Considero risolto. Me ne occupo io, considero risolto. Allora, io intanto non riesco ad ascoltarlo in italiano perché la voce del presidente Grant è quella di un collega che ha lavorato per tanti anni a Radio 24, che è Alessandro Maria Delrico. E quindi... Cioè, lo sento e penso ad Alessandro che... Cioè, allora è per quello che lo guardi in inglese. Si faccia un po'. E poi devo dire che scandalo. Poi noi donne romantiche, sì, con la coperta, il divano, i vestitini, sì, la tazza di latte, lì le lacrime perché c'è la storia d'amore. Poi, scusa, tu dicevi che è vivace. No, c'è la storia d'amore, cioè non è che è una roba di... Certo. C'è l'amore, è amore vero. Sì, poi lì c'è quella moglie presidentessa, cioè, poi è un triangolo consapevole, anche questa è la cosa innovativa, no? Non si dice mai. Secondo te, Camilla, in questo periodo molta politica italiana sta usando i media in maniera molto spettacolare, consapevolmente e inconsapevolmente. Consapevolmente penso al vestito di Cristina Parodi con l'abbraccio a Giorgio Gori, lo stesso vestito di Michelle Obama. Inconsapevolmente col bikini di Agnese Renzi, che poverina è stata paparazzata. Devo dire complimenti, signora Renzi, davvero tanti tanti complimenti. Beh, però non è la politica. Smollate abbiamo avuto. Sì, ma ci siamo fatte molte domande su. Sì, non sì. È la politica, no, quello, no, è una signora però, in vacanza. No, quello ormai è la vita, diciamo, capita anche se fai la parrucchiera a Cormano. Cioè, ormai la nostra vita è uno show, sappiamo tutti che siamo ma non solo le persone famose, cioè, sappiamo tutti di essere ormai esposti ed esplosi anche nei nostri lati segreti. Ecco Camilla, le cose che stai dicendo in qualche modo, se non ho capito male, sono anche al centro del tuo ultimo romanzo, che si intitola, un titolo stupendo, Il sale rosa dell'Himalaya. Raccontaci perché la rete, il fatto che la nostra vita sia un po' di tutti e di nessuno contemporaneamente c'entra? È un romanzo sulla violenza fisica, ma anche e soprattutto, che è più scontata, quella siamo tutti preparati a subirla fin da piccole, soprattutto se donne, c'è sempre una mamma, una nonna, qualcuno che ti dice stai attento, potrebbe esserci il mostro, il rapitore, il violentatore, ma non siamo ancora preparati, praticamente nessuno, alla violenza dei media. Poco, insomma, non te lo dicono fin da piccolo, crescendoti con questo. E alla mia protagonista capita un caso di doppia violenza, cioè mentre è rapita e pensa, perché era uscita per comprare il sale rosa dell'Himalaya, era una stupidaggine a Milano, e le capita un disastro, viene sequestrata da due manigoldi sprovveduti, insomma. Subisce a sua insaputa la violenza dei media, che cominciano a scavare nella sua vita, degli amici mai più rivisti da 20 anni, gli ex fidanzati, tutti che per dire qualcosa, un po' per vigliaccheria, un po' invece per volontà di apparire, un po' per dire la loro, un po' perché scovati, alla fine riluttante, tutti riescono a dire delle cose sgradevoli o delle cattiverie o a interpretare in modo mostruosamente manipolatorio delle cose che lei dice, compreso il solito magistrato che fa uscire intercettazioni. Insomma, c'è questo mondo che racconto di manipolazione della realtà, di una persona che la subisce, e anche, che poi è un tema cruciale da sempre, che è quello della reputazione, che noi, ognuno di noi pensa di essere una cosa, cerca di nascondere le cose negative e pensa di avere un'immagine. E poi può darsi che a un certo punto della tua vita capiti che tu scopri che la tua immagine è totalmente diversa, quello che tu credevi di essere non è il modo in cui vieni percepito, ecco. E la rete l'amplifica. Sono ammutolita perché sto facendo... avrei molte riflessioni in tema, ma insomma non voglio raccontare troppe cose. Camilla, voglio farvi sorridere. Ci sono gli ultimi minuti di RadioTube, voglio farvi sorridere con quella che è la tua preferita. Poi chiediamo a Camilla e poi dico io. Allora, mi piace molto Scandal, l'ho detto perché mi faccio i lacrimoni sul divano sotto il plaid. Sì, e i cappottini. Ma la mia preferita in realtà è Parks and Recreation. Non diffusissima, non conosciutissima in Italia. C'è la storia di questa signora che si chiama Leslie Knope, che è una signora molto appassionata di politica, che parte dall'essere una sorta di assessore ai parchi di una cittadina immaginaria e mano a mano sale di carriera fino ad arrivare a Washington, ma certo non con le trame, con gli intrighi, ma solo con una grande passione, e tra un guaio e l'altro, rendendosi ridicola in tutti i modi, riesce comunque a riuscire. Ed è successa una cosa molto particolare in questa serie, ve la faccio sentire questa volta in inglese perché, vabbè, si capisce da questo estratto chi è la guest star, chi ha fatto un cameo in Parks and Recreation. Hello, Mrs. Obama. Hey, Grant, how you doing? Doing good. This is Leslie Knope. She's considering a job with us running the new Midwest Bureau in Chicago. Well, you know how I feel about Chicago. Yeah, you are from Chicago, so you like it. That's right. And we need passionate people like you in our national parks. You know, they get hundreds of millions of visitors each year. Are you nodding because you agree with me? Yes, I do agree with you. I agree with you on all things throughout history until the end of time forever. Cioè, sarò d'accordo con lei per sempre, nei secoli dei secoli, su tutto. Perché la signora... Ma che vestito aveva, Michelle? Vabbè, non aveva quello... un vestito rosso, no, rosso e blu, non, ma non era quello. Di... Beh, Camilla, il fatto che la signora Obama già l'aveva fatto con una serie di Nickelodeon per ragazzi nella quale aveva ballato, però si ma sia prestata... Ma sai che io ho visto l'altro giorno una puntata di Nashville dove c'è... Michelle Obama. Ma sai che sto iniziando una maratona di Nashville io, quindi non svelarmi niente. L'ultima, siamo la terz'ultima puntata della nuova serie, c'è Michelle Obama. Capisci? Quella sta facendo il giro di tutti i siti. Beh, allora voglio dire, ci sarà un perché. Cioè, come si dice sempre, facciamoci una domanda e diamoci una risposta se sta facendo il giro, Sì. Adesso, mettendo insieme le tessere, abbiamo scoperto che ognuno di noi ha visto un serial dove c'era una puntata di Michelle. Ma qual è la tua preferita, Camilla? Così anche per... dobbiamo schierarci. Ma guarda, ogni volta, forse House of Cards in assoluto credo che sia la cosa più bella che abbia mai visto. Però c'è Mad Men che morde lì vicino, ce ne sono tantissime che ho visto di meravigliose, vi dico quelle in corso, secondo me le più belle. Mad Men, che è sempre amaro a livelli inauditi, tutto fallisce, tutto va male, è molto molto bello come riesce a tenere. Poi c'è The Americans, che è bello, poi c'è Ray Donovan che sta per reiniziare, Orange is the New Black, bella anche questa, poi sì. C'è Downton Abbey, ce ne sono parecchie in giro, che è True Detective. Insomma, abbiamo trovato un bel po' di successori di West Wing. Beh, poi è stato fantastico Homeland. L'avevamo anche, ma insomma il tempo, come si suol dire, è tiranno e non riusciamo a sentire anche un video. E poi Fargo, scusate, mi dimentico di dirvi. Bellissima. E Fargo è pazzesco, se potete guardatelo, perché... Ma non la sera prima di andare a letto, perché poi si fanno i brutti segni. No, ho avuto degli incubi bestiali. Anch'io. Proprio due puntate fa, proprio dormito da cani poi. Io vorrei salutare... è stupendo. Vorrei salutare Camilla Varesani, anche gli ascoltatori, ma anche Peter Bescapè in regia, con questo quesito che ultimamente gira molto in rete e a me piace molto. La domanda è: ma è più importante essere amati o essere in pari con le serie TV? E con questo interrogativo vi lasciamo fino alla prossima settimana. Guardate però qualcosa in italiano, però. No, noi guardate, Camilla, sempre in inglese in italiano, no, noi sempre in inglese. Sì. No, non si può, solo ma abbiamo doppiatori bravissimi. Possiamo guardare Romanzo Criminale e Gomorra solo le native possiamo guardare sì, in italiano. Grazie, ciao, Camilla, per essere stata con noi. Buona giornata. Senti, ciao, la moto. Ciao a tutti. Senti la moto che sta sgomma. Sta già scappando in moto. Ma non ho nemmeno ancora il foglio rosa. Allora, Daniele, buona godiamoci la domenica. Tutti. Noi buon ci ritroviamo. Mondiali, tutto. Sì, noi ci ritroviamo sabato prossimo alle 18 con una nuova puntata di Radio Tube. E poi la domenica, alle 15. Il prossimo fine settimana. A presto.